TV canale 10? No, vabbè. Oi, vabbè. Ciao. Stavo ascoltando dall'altra parte, non vi sono portante, infatti veramente ho sentito, era lo squelch, quindi ho sentito appena la chiamata. Grazie per avermi risposto. No, anche io stavo ascoltando, però non ho voglia di parlare di ieri, sennò diventa un po' troppo monotona la cosa, sono un po' assente da qua, e poi se funziona ancora questa radio. Sì, va bene, va bene. E tu, tutto a posto? Sì, grazie a Dio, diciamo sì, dai. Ah, va bene, va bene. L'importante è andare avanti, io mi stavo organizzando, aspettando un po' di roba, di cose, ci guardiamo la partita stasera con un po' di gente. E nulla, e niente, e tu quindi non sei uscito? No, stamattina per la partita di Gabriele, poi vabbè non ha giocato perché aspettava all'altro portiere, e niente, quindi ho guardato la partita lì, poi che partita c'è? C'è Atalanta-Juventus stasera, dovrebbe essere una gran bella partita perché l'Inter ha pareggiato col Napoli, quindi se la Juve supera l'Atalanta, rosicchia altri due punti e se ne va da sola al terzo posto assieme al e forse, ma su canale 5? No, è a... non so se è su DAZN o su Sky, non lo so, io non ne ho abbonamento, mi permetto, porta la tessera a mio genero, quindi la inseriamo e ce la guardiamo. Ah, no, io ho il televisore, non so se c'è DAZN o cosa, non so, devo guardare, faccio vedere a Gabriele poi, non me ne intendo di queste Netflix e quant'altro, metto tutto quanto loro. Sì, beh, se tu c'hai internet già, cioè te la fa vedere, se la vuoi vedere tuo figlio, già sono esperti loro. No, io non c'ho niente, no, io guardiamo solo Ilaria, c'è Netflix tutto e lo sposta sullo Smart TV, che quello lì è un 4K, l'ultimo che ho preso 55 pollici, però non posso vederla lì, capito? E allora ce la guardiamo con la scheda, quella di Sky, dai. Ah, va bene, allora, no, pensavo che era come le altre, dai, che le davano a canale 5, libera. No, a canale 5 erano solo a Coppa Italia e le tre praticamente italiane che sono rimaste in Champion fanno vedere a ruota una partita per uno a canale C, non so se alla Rai o a canale C, forse alla Rai, la Champion alla Rai e la Coppa Italia la fanno vedere a canale 5. Ho capito. Ieri mi sono andato alla pulizia di una radio, non so se tu ti ricordi la vecchia Varta, buonanima, che modulava. Chi la vecchia? Marta? Ma guarda che la figlia modulava con noi, è Super Pila. Ah, sì. E quella cos'era? Una radio valvolare? Boh, non mi ricordo cosa usava. No, vabbè, l'ha dato il marito, diciamo, il padre di Mariangelo, mi ha dato un vecchio Vintec che aveva giù in campagna, ma voleva innanzitutto pulito perché era abbandonato anni lì dove aveva l'azienda, un Vintec 34 canali piccolino, ma ho visto che dopo un po' acceso è tornato bene, sono demoliti quella radiolina lì che sì, vanno bene, ma io ne ho due o tre di radio proprio vecchie, tipo quella che c'hai tu, il non mi ricordo, che l'ho avuta anche io, quella che ricoperta di plastica marrone, di quel rivestimento, come si chiama quella, non me lo ricordo, tipo quella lì, 23 canali, c'ho un'altra 23 canali, ma veicolari e in base li ho tutti dati perché se no no, due o tre basi mi si riempie l'armadio, invece c'ho tutti quelli lì, c'ho l'Urano, se c'ho l'Elbex 4082, ne ho dei baracchini, ma sono tutti eccezionali, hanno questa modulazione fantastica, capito? Non ce n'è di modulazioni come quei vecchi baracchini lì. Sì, già va bene, è piccolino, insomma, non è che puoi pretendere, guardato sono 4 watt effettivi, ti devo girare. Vabbè, però diciamo, si utilizzavano così. E niente, con microfono normale, niente di che, una scatoletta. Sì, un affare del genere, malato Fabrizio, a usarlo, a provarlo, l'ho provato e c'è molto bene, piccolino, boh, sarà. Cosa di buccio lì, quanto un switching, una cosa del genere, di quelli dei cinesi, una cosa così, piccolino, stretto così, più corto, e c'è una bellissima modulazione, l'ho provato e c'è molto bene, infatti l'altro giorno gli ho detto, ma quello che tiene lì poi usa, uso io baracchino, io fuori da questa radio qua non riesco a parlare col Galaxy, figurati se riesco a parlare con baracchini del genere, infatti l'ho messo dentro l'armadio e poi alla prima occasione glielo restituisco. Va bene, io sinceramente non è, vabbè, me l'ha regalato, lo tengo, ma lo metto da parte, conservato, niente di che, forse lo aiuterò con qualche amplificatore. Sì, amplificatori ne ho transistorizzati, ne ho valvolari, ne ho 3 o 4. Ho trovato anche un altro, uno l'avevo venduto, pensavo di non averne più, invece ho trovato un altro 747, dentro la scatola nuovo, l'ho provato da 100 watt pieni, nuovo. Io poi non mi ricordo, sai, a 62 anni c'ho già l'Alzheimer, non mi ricordo la roba che ho, e mettendo a posto proprio nel traslocco c'era una scatola, ho detto, ma qua dentro cosa c'è? C'erano cavi, cavettini, e c'era questa scatola, l'ho aperto, c'era 747 dentro, nuovo. Quindi c'ho anche quello, e l'avevo dato, il mio l'avevo dato Antonio Riserva, figurati. Ascoltati, questo è il 140, adesso commuto al 430 perché devo aver toccato il mic gain, non so più la posizione, che così mi ci la differenza che c'è tra questa e il 430. Vai. Allora, questo è il 430, più alta la modulazione, troppo alta. Abbassa. Oddio, amici, lo sapevo io che... Allora, regolamela bene, sto abbassando, perché questo c'è il 140, c'è la radio, questo c'è il potenziometro come 440, mi devo abbassare per... Allora, l'ho abbassata di un'attacca, va meglio così. Così è qua, come l'altra radio che avevi poc'anzi, come 140. Ma io voglio che questa sia più forte di 140, troppo mi hai fatto abbassare, no? No, l'ho fatta appena, ti sto dicendo cosa fare, ma poco, perché non puoi fare in troppo. Guarda, proprio un pelino, così va meglio. No, fammi il passaggio da basso alzando, fai 1, 2, questa posizione 2. Allora, aspetta, allora facciamo questa da basso, questa è la posizione numero 1, posizione numero 1, posizione numero 2, va meglio? No. Allora sei troppo vicino al microfono, oppure così vai più, abbassa ancora. Allora, no, mi devo avvicinare, però questa, ripeto, vediamo un po'. Questa è la posizione numero 1, la lascio così o è troppo alta ancora? Troppo alta per me, Io voglio a te perché tu conosci la mazza nera in varia, cioè a 1 ce l'ho metto a meno di 1. Così è meno di 1, 0,5. Sì, così vai bene, se puoi alzare appena, ma proprio un cc, Guarda, 0,8. Allontanati un po' il microfono. Sì, non sono al microfono, ti. Forse sono troppo, sì, sono troppo alto in potenza. Così va meglio. Abbasso appena. Vero? Adesso devo abbassare la radio, che lo sapevo io. 10:20. Ecco qua, 20 volte le portante, ora 50 le portante, troppo alta. Così va bene? Non tocca se. Basta, boh. Quando ti muscolo dice non tocca se, non tocca se. Era troppo alta di la saturazione, forse sentivi, no? No, stavo tenendo andare a saltare. Forse era troppo alto di watti. Ci ho messo 20 watt di portante, 50 modulati, processore inserito, e il mic gain non è neanche a 1, quindi lo lascio così. Sì, sì, un piloto dell'altro. Sì, appena appena, basta ci sia appena appena di cosa, l'importante è che non vada in distorsione. No, no, ma a me piace più questa modulazione, che l'altra che avevi. RT 430, la Saguba, non sento a fare. Sono tenuto perché ho una signora radio, signora, poi mi, ultimamente gli ho dato due ritocchi Fabrizio perché mi si era spento il frequenzimetro, si era staccato un filo, quindi ha approfittato, ha fatto un po' di saldature, ha fatto un po' di tarature, perciò ti posso garantire che adesso è a posto. Sì, sì, va bene, così va bene, lascia così, non toccare. No, non tocco niente, lascio stare così, anche perché io già lo usai, è perché mi sono accorto che ogni tanto le pulisco col pennellino e cose, capito, e quindi sicuramente ho toccato il Mickey Game perché volevo l'avevo smesso e stavo impazzendo, era troppo alto. No, così va bene, per me al mio orecchio è la tua classica. E quello mi interessa che sia quella lì, capito? In modo che non la tocco, anche perché adesso ho 3 MC60 di nuovo, più uno per ogni radio, ma che non sto attacca e stacca, il 2430 e il 140 l'avevo preso anche la T250, qui ce l'ho in mia completa, e va bene. Sì, alleluia. Che giornata oggi è. No, ti posso garantire, io sono partito stamattina in quarta, perché c'era un bel librino, l'erba era tutta bagnata, il padre era tutto bagnato, detto no, mi faccio un girettino e tra sassi. Sono uscito che erano le 10:15, penso la Patrizia per i mesi in rete, ho iniziato a aggiornare come faccio sempre, la domenica, barono tutti lì, la domenica lì ho incontrato un paio di persone che insomma ci incontriamo sempre la domenica parlando, gira, tira, molla, e mi sono detto che erano più delle 11. Poi sono andato all'Eurospina a prendere due fesserie, sono entrato a casa che era mezzogiorno, ho detto boh, usaggio di vaio, rasero bratto, non penso proprio. Mi ha affettato due cosettine di formaggio, un po' di patatini, mi sono sentito in veranda che non si stava male, ma gli ho dato una lattina di birra e poi mi sono messo a pranzo. Vabbè, così. Ma io sono andato a vedere la partita, ma alle 11, tra una cosa e l'altra è finito all'una da qualche cosa, quindi cosa vuoi fare? Innanzitutto abbiamo mangiato, perché l'intenzione era tagliare legna che mi ha un po' da fare, stanno portando qua a casa adesso e quindi devo ritirare un po' di roba, però ho l'impegno di portare a Gabriele a calcio, quindi non avrà qua la tua voce. Vabbè, ho giocato in casa, quindi non c'è un problema. Sì, ascolta, ma il campo dell'Avantini dove è? Vicino a Via Pratti, quello lì è? L'Avantini sì, è quello che hanno fatto nuovo in come si dice? Il sintetico. Ah, ok. Un 4,50 sta lavorando, 5,50, se vi interessa. Il 4,50 tuo? No, un altro, il mio non lo do. Questo qua è la vetrina. No, neanche questo è nuovo, se lo vedi è spettacolare, nuovo, bravo me. Perché io il mio l'avevo venuto, poi ne avevo comprato un altro, questo era Gian Sarichi, nuovo, proprio rifatto completamente anche di carrozzeria, nuovo, originale, nuovo, un graffio, lucido, bello, sintetico, e non lo do. Me l'hanno chiesto un sacco di gente, no. 430 non si tocca, già va bene. E di chi è questo 450? così. Mi sono promesso di non investire più manco una lira, di non spendere quattrini, nuove antenne, ho comprato la 4 bande o 5 bande che sia verticale, sempre a PKW doppio, la XC510 nuova, adesso mi lavoro che mi deve fare anche la XC300, penso in settimana, e non c'è ancora abbastanza di lunga, nulla, c'è una XC50 lì appoggiata, giusto per fare due chiacchi, non ne voglio a te. Voglio riposare, se ne metto a fare qua a seguire antenne, ma a me non mi interessa, sinceramente, giusto quello che ho, va bene, quando sarà, se sarà, metterò mai su, ma non mi interessa adesso. Io mettiti sotto quest'estate, te le passi dall'altra parte, anche tu intanto mi sa che poche persone sono rimaste qua. Io ti ripeto, sono un po' assente, oggi ho deciso di fare due chiacchiere qua, giusto per far scaldare un po' questa radio. Sono anch'io, come vedi, come senti, non è che sto bazzicando, sono un po' più buttato da altre parti, perché non c'è nessuno, non c'è dialogo, non c'è niente, non c'è gente, sempre quelle due o tre persone, non si fa proprio i controlli qui, i controlli là, mi stufa subito, ho capito, ognuno per carità può fare quello che vuole, ma non riesco a stare in radio così. Ma, per carità, no, va bene così, come adesso. Sì, ma infatti, va bene, poi pochi ma buoni, è il motto giusto, però ti ripeto, io non è che, non ne ho molta voglia, la vita, però una volta non ti ascolto, ho tutte le radio spente, tengo accese solo le ATF, basta. No, perché che, vabbè, adesso arriverà il periodo del caldo, non sarà più il tempo di starci, perché si allungano le giornate, da fare fuori, tra una cosa e l'altra, poi entri, mangi, fai, cosa sarà radio. In inverno magari così, nei più ci stai, no? In estate sei più fuori che dentro. Tanto siamo iniziati con 40 gradi. 40 gradi fuori, dentro c'è un fresco terribile, questa è molto molto fresca la casa, però mi godo il caldo, mi metto a fare, a prendermi il sole, capito, poi adesso devo, ad aprile maggio inizio a fare qualche lavoro di copertura, quindi insomma, non da fare, è tempo di stare appresso le antenne, la radio, ne ho poco, ti la verità, e soprattutto non la giovana di far nulla, quello è il motto. È così, ehi vabbè. E ti, iniziamo la discesa sta, sono 62, stanno iniziando a pesarmi, proprio prima mi veniva voglia di fare qui, là, a destra, a sinistra, là, non vado a alzarmi dal letto e sedermi nella portona. Ehi vabbè. Ma sbaglio, c'è qualcuno che vuole entrare, c'è un portante che è tutto fissato con l'altra radio accesa, ma evidentemente non disturbo nessuno perché ti non mi ascolta, non so, vuole entrare o hai bisogno di qualcosa, facci capire. Io non ho sentito a nessuno, ma poco mi interessa, se vogliono entrare già c'è il bianco. E ma io ce l'ho fissato 9:10, quindi. Sì, andare. E infatti in tutti i dubbi, ma non sanno che dopo 40 anni di radio qualcuno è più furbo. Avanti, ti ho detto, se vuoi entrare. Ui, arriva neanche a 7 qua. Qua arriva 9:10, ma tu sei molto più alto, quindi non ti fa assolutamente niente. E così ti, capito? Prima ti veniva la voglia di fare, di produrre, di insomma inventarti anche qualcosa. Ma ora non mangio più gara, proprio, ti ripeto. Mi alzo dal letto e mi sono una poltrona. Sì, vabbè, no, io ancora qua vado a fare, ma sto trascurando un po' di roba perché ho entrato dal lavoro, quindi tra una cosa e l'altra. Adesso però devo riapprofittarne, perché se le giornate allungano, quando sto al lavoro devo continuare a lavorare. Beh, è normale, e tu che non sei abituato a non rimanere fermo, è chiaro che è così. E vabbè, Sempre lì siete, voi siete a Sassari o fuori Sassari? Io molto sicuramente cambieremo fra un po', perché la volettoria per Torres, adesso vediamo. Ho capito, ho capito. Sì, sempre con la stessa azienda, sì? Sì, sì, sì. E allora vai. Quindi state cercando, state aprendo qualche cantiere del Porto Torres. Cosa c'è? Cos'è? Roba di luce, acqua, cos'è? No, fibra. Ah, sì, fibra. Passami in un prezzo, allungala, bassa la secca, la zona di Firighetto, allungala, che non aggiungo fibra, non è bassa, no? Anche io qua non ne ho, Io ho quella DSL. Io ho capito, infatti, qua la fibra non passa. Quindi se ti avanti un prezzo, un paio di metri, una decina di metri, lascialo che la colleghiamo e così vediamo di fare la fibra anche qua. Non ce ne sono cagnolini qua, no. Se vuoi entrare, entra. Hai capito perché a me mi piace poco entrare in radio. A chi ha gatti imbecilli, un anteghicio, di frusca, buona abbottante. Ti ho già detto che non disturbi manco il piccione e sei continuando a fesciare. Talmente basso, ma qui lo sento. Buonasera. Noi, ciao qui. Oh, mi Santiago 2, Radio 1, ma che fa me, figurati. E qua è sottattino, quindi cosa continua a frusciare la prima balla. Taci per sempre. Quando uno entra in radio deve essere talmente forte, ma veramente distruggere tutto come i vecchi tempi, vero Tico? Guarda, c'ho la stamattina attaccato questo qua, sto provando l'amplificatore popolare con il 34K, non so che va in un po' di saturazione, adesso non ce la fa la spinta della radio a piattare la valvola. Io ce devo entrare l'armadio, no? Ce l'ho qua in esposizione, ma sono praticamente senza essere collegati, perché tanto non ne fa niente, non serve a niente. Se dovesse servire già ci vuole 2 minuti a collegarsi, no? Ti giucciano, quindi è meglio lasciarli a riposo. Ho tolto l'altro giorno, ho fatto un paio di passaggi con la VM Italy, ho visto che ancora scherreggia forte. Bello me. Forse me l'ha accordato, E che cosa accordi? Che si è passato da 9.15 a 9, quasi 9.30. Vabbè, ma adesso è... Vabbè, è in stand by, dicevo, Non vuole accordarsi, è già accordato, però tende a salire man mano che moduli. No, io voglio provare uno transversato, non a valvole, capito? No, gatto. E mai ho detto che devi fare. Se devi prendere come quello che ho io, prendo a 24 volts, non lo prendere a 12, perché non c'hanno grande resa. Quello a 24 è del doppio. Sì, Cristian. Vabbè, lo so, il doppio sì, però... Stiamo già fatto con un bip, Lo so, bip, devi prenderti anche un alimentatore o farti fare un alimentatore 24. Io me li sono fatti fare 2 accoppiati, 2 proxy piccolini, switching messi uno sopra l'altro, con i bulloncini dall'interno non si vede niente, sembra un alimentatore unico, però sono 24 volts. Sì, ho capito, quelli di bacina, eh? No, proprio di quelli piccolini, ti ricordi che li facevo, la Proxel e la Nissei, non Proxel, quelli piccolini della Nissei, ne ho preso 2 da 12 e me lo sono fatto fare a 24. Buonasera! Sa che hai seduto esatto, ok? Un bel esatto, Sento uno solo, Chi era Gianni? Ehi, io sono, là. Sono Deo! Ciao Gianni, qua vabbè, con 5.500 si può imboccare, però lì un bel in saturazione, Capa, no, ma io mi sono dimenticato di ammassare i watt, capito? Per quello che sono uscito sotto. Ho praticamente abbassato i watt dell'apparecchio. Ah, capo. Cavagava. Vi stavo ascoltando, ma stavo facendo roba, non potevo entrare. Buonasera a tutti. Anche a lei. Vabbè, sono 4 giorni, io me ne vado. Vi saluto, sono già a 10, devo preparare, tra l'altro c'è gente a cena, ci vediamo per la partita. Vado a iniziare a organizzare il ricevimento. Ciao Cristian, ciao Gianni, ciao Tino, piacere stato, ci sentiamo alle prossimine, ciao Tino, ciao Claudio, dai. Comunque quel colpo importante era il mio, involontariamente ho toccato il microfono senza volere. E come mai non passavi sopra Tino allora? Che bagava. È molto sensibile questo microfono, basta che lo sfiori appena e subito. Va bene, avanti Cristian. Ciao Claudio, ciao te. Buona partita, dai. Ciao Cristian, come mai Latino non riuscivi a passare? Se non arrivavi 7 non eri tu che stavi mettendo la porta. Questa l'ha messa per 2-3 volte, quindi. No, a me mi è scappato un colpo di portante quando stavo prendendo il microfono in mano e quindi ho detto solo io quello dove c'era il bip, ero io. No, non ce n'era bip, non c'era un portante a 9+10 e basta. A me, però a Tino gli arrivava S7, quindi non eri tu. Va bene, di nuovo, rinnovo saluto a tutti, ciao, baci e abbracci, ci sentiamo, ciao, passo e chiudo. Ciao Claudio, buona serata. Avanti Cristian. Ciao Claudio, buona serata. Avanti che Tino. Va bene, dai. Ciao. Buon divertimento per stasera, buona partita, buon tutto. Buona carica e quant'altro. Ciao, salutami in casa. Allora Gianni. E allora io sono stato tardi oggi. Stavo cantando e quindi sono stato tardi. Stavi cantando, lo canta tu? No. Io sono in un app dove si canta, appartengo a quest'app dove ci sono giochi, praticamente in base a come canti ti dà il punteggio, eccetera, eccetera. Ah, mi diverto. Pensavo era una cosa così, fatta casalinga, ecco. Sì, c'è le cuffie col microfono, canto da lì. Ah, diciamo a chi piace cantare, a me mi scarica molto mi cantare, specialmente quando sono quelle canzoni molto alte, allora mi scaricano proprio i nervi. Ho capito. Grizia. Anche io canto, in macchina, guido. Tu canti caserma, cos'è in macchina? Beh, io a caserma non canto proprio, anche in caserma, poco c'è del caserma io. Sto scherzando. No, guarda, mi devo entrare in caserma a fare 2 denunce, ma ancora sono entrato, da 2 anni fa però. E ormai è passato in cavalleria allora, ma ancora là stai lavorando qui? La paderò già. Conservo le mie. E a me adesso mi faccio la tua carica e conservo. Andabex. Beh ragazzi, dai, anche io adesso mi preparo per la cena, dai, che sono faccio tardi, l'ora mattina devo fare presto. Chi si risponda, dai, al prossimo. Vai Gianni. Dai, ciao sì, buona cena e buona continuazione serata, dai, ci sentiamo. Avanti qui. Sì, no, è venuto amico tu l'altro giorno, Luciano, e non è messo bene, lo sai. Ah sì, vabbè. Ma cosa era successo? Non ho caduto, vero? Era tamponato da dietro, era tamponato e la colpa l'ha data a lui. Cioè, la colpa la dà a chi tampona. Cioè, è stato tamponato e la colpa è la sua. Capa, io ho fracassato la macchina, io ho girato la macchina e ho girato anche, figurati. Ma no, d'altronde quello che era dietro ha sempre la colpa, deve comprare una risposta di sicurezza. Non lo so, ma lui stava uscendo da uno stop, questo qui stava correndo e gli ha dato sopra, gli ha sventato la macchina. Se lo vedi è diventato la metà. Ah, beh, se lui è uscito dallo stop e l'ha tamponato chi stava attraversando lo stop è un'altra cosa, ma se l'ha tamponato da dietro è quello di dietro che ha la colpa. Poi non lo so, deve essere che a conoscenza di qualcuno questo qui ha un camuffato tutto gatto. Vabbè, pace. No, se lo vedi ti hai detto la metà, Va bene, non conviene mai avere incidenti, per carità. Però se non è rottatore, per dire, anche se tu hai la precedenza ti danno il 50%. Sì, vabbè, ma dillo a lui però, tanto non, guarda, grazie a Dio a me ho avuto incidenti e me l'ho sempre pagato, poi per il resto, grazie a Dio, cosati da me, forse uno e basta. Sì, ma tu c'era poco la patente qui. 10 anni c'ho la patente, io sono già fatto 190.000 km già sulla schiena. Sì, è vero che sia. Sono già stato anche di guidare, guarda. Allora io ne ho fatto solo con la macchina 350.000. Poi per non contare tutte le altre che le ho versate con 100.000, 150.000 km, immagina, tanto la giuma qui. Ciao ragazzi, ciao. Vabbè, questo appunto di ciao. Va benissimo, mi mette multigetto, non consuma niente, cammina benissimo, è un bombo. La tacchiera è benzina a gas e consuma ancora di meno. E io non ce l'ho a gas, io ce l'ho a gas là. Adesso l'ho prestato un amico perché mi ha sentito con la sua e sta usando lui. E adesso mi è arrivato la lettera, devo fare la revisione. Già 4 anni mi raggio, non mi dice come ha cambiato. Ed è nuovo, mi tocco però, non c'è un grafo. Cosa passa? 4 anni sono passati, boh, manco me ne sono gabbizzato io. Aspetta un attimo che... Hola? Clic, clic. Però con una telefonata di un amico. Cosa? Clic. No, che la moglie ha fatto le frittelle e se ne andava a prendermele per casa. Ah, ma io regalo un po' binocchio, se non è drucco. No, ogni tanto qualcuno mi dà, mi fa i dolci a me. Visto che i dolci non so fare io. A me non mi date nessuno, se non mi ricompare c'è male il vostro. Prima quando le faceva a mamma le faceva bacinelle, ma poi le lavorava a mano, era un'altra cosa. Mi metteva la coperta sotto sopra per evitare, tutta l'antica faceva. Ma faceva queste frittelle così buone, con sapore dell'arancia, proprio buone, buone, buone, morbide e buone, non perché le faceva mia madre, però le facevano in due. Lei e la signora che abitava sotto, perché erano molto amiche, facevano tutte insieme. Facevano 2 bacinelle e un po' si divideva per lì e un po' per quella di sotto. Ma ti sto dicendo che ci diceva sempre non bevete acqua quando mangiate le frittelle, bevete prima, ma dopo quando state mangiando le frittelle se non vi gonfia se bevete l'acqua. Ed è vero. Guarda, io per guarda, dolce non so fare pure la verità, ma primi secondi sì, grazie a Dio. E io dolce mi sono fermato al budino. Il budino lo so fare bene. Beh, mi esce bello duro, bello solido. Però non mi sono mai messo, non posso dire non lo so fare. Non mi sono mai messo a farli, la verità. Però a cucinare anche io mi arrangio bene, dai. Ci arrangio bene. Ecco. Guarda, neanche io dolci non ho mai registrato. Se mi metto li so fare, se mi metto, lo faccio benissimo. Ma non. Guarda, vado a fare il diabetico poi, i dolci, a casa, meglio non farne. Lo so, e io lo stesso. Avanti, avanti. Ciao Gianni, buonasera, un rapporto di segnale me lo date? E io sono con quell'apparato là, quello che c'ha lo smitter a mano fra. Però sta arrivando bene. Non so, che altro c'è qua in ruota? Cristian! Ciao Cristian, buonasera, me lo dai un controllo segnale, fa la cortesia. E dove sei? E adesso sono a casa e sto provando una cosa. Sì, 930 Radio 5, la bomba. Ok, e tu che cosa sei? Santa di Pisa. Pappa, quindi sta andando bene? Benissimo, guarda, benissimo. 767. E il cap, no, sto pilotando, sì, con quello già. Va bene, fra. Ottima la radio. Va bene, sì. Adesso prova a staccare, Cristian. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3. Adesso la radio è un po' più forte, però il segnale ha cambiato. Vero. Invece, Cristian, a te come sta arrivando? La radio è aumentata alla grande, il segnale è sempre uguale perché ormai si fa scala qui. Comunque la radio è buona, Franco. Nel secondo passaggio dove tu hai staccato il 7, nel secondo passaggio ti amplifica pure i rumori, si sente la ventola. ok, vabbè, adesso è attaccato, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Già va bene, va benissimo del radio. Cosa stai usando? Il microfono mio? Cavolo positivo, sì. Stavo pilotando questo 767 della CT International, questo HF. Con che apparecchio? Adesso lo sto pilotando col 48. Allora va bene, dai, va bene. Non ti distorce nulla la radio, dai. Diciamo che il mio aveva una prerogativa che ti aumentava la radio. Questo qua ti toglie un po' di amplificazione, ma la radio è perfetta lo stesso. Vabbè. Questo qua aspetta un attimo, così è più alto di potenza e così va basso di poco, però di 5 watt in meno. No, va bene lo stesso, va bene lo stesso anche alto. Cava, vabbè, dai, faccio il pescerino, quello è a me. Guarda, vabbè, proseguite. Grazie del rapporto, contraccambio tutto, 5,9 più 20, Gianni, 5,940, qua, quindi. Va bene, ok? Ciao, ciao, Fra, ci sentiamo, là. Avanti, Cristian, arrivato sei a casa. Ciao, Fra, ci sentiamo, non so venire, sto andando a farmi un giro così al volo, perché ho tornato a casa oggi. Sta sigillandomi con la stufa a pellet, che c'è molto di fumi spaccato. Ho capito. Acciugavini. E tuo padre con chi sta adesso, quando tu non ci sei? C'è mia madre ancora viva, sono tutti vivi. Ho capito. Va bene. No, pensavo che lo tenessi solo tu, capito? No, c'è anche mia madre, va tranquillo. Mamma già con la bella zilla ancora, dai. Vabbè. La vecchiaia è carogna, ma la giusti. Chissà come finiremo noi. Io di certo finirò alla 80% per Rosina, fidati. Domani devo andare in quel QTH, ma di mattina tu attacchi. Dove andare domattina? L'attacchi al parecchio domani mattina. Sì, l'attacco, ma io vado presto per il lavoro. Andiamo. Io alle 8 sono già in negozio a lavorare. Doppio orru. Luca. Ciao Cri. Sorda sei, doppio orru. No, stavo parlando con la guerra qua. Va bene, là. Sì, ti ho sentito, Giannalandini. Alla tua volta arrivo a casa già. Se ci sei, facciamo qualche prova, se ci sei. Se no, poi io per te. Ma l'hai aggiustato? La stazione è regolata, le hai. Tu, Cristian, muscoli. Vabbè. Cristian, riprendi tu. Sì, te lo dà tutto, è chiaro, che sto guidando la macchinina. Come so se ripiuta, No, mi ha detto se hanno regolato le stazionarie, è quello che mi interessava sapere. Vabbè, adesso fra poco scendo col cane, dai. Mi sa che vi saluto. Volevo sapere solo quello che non va lì, se entra e chiedi se l'hanno regolato. E poi me lo fai sapere. Cristian, ci sentiamo alle prossime, che io vado a prepararmi, scendo giù col cane, faccio un giretto e poi rientro. Andate, ci sentiamo. Ciao Gianni, buona giornata col cane, salutamelo. Grazie, peso ti saluta, ciao. Tu Cariello? Gianni. Lu, ti ho detto che stato regolato. Allora, nel 10 1 e 2 sono, però quando vado nei canali alti, salgono, capito? E allora, questo fine settimana, viene un amico con l'aggeggio, dai, che me lo regola. Non pensavo che fosse già venuto, capito? Vabbè, ma se 1 e 2 in tutti i canali va bene, non è che vada male. Anche la mia era così, 1 e 1, 1 e 2 in tutti i canali, però, capito? Non saliva. Se tu la regoli così, questa nuova che ho io sale al massimo 1 e 3 proprio nei canali alti. Però l'avrei potuto regolare anche per dire mettere 1 e 1 sul 10, 1 e 1 sul 20, capito? E dare in tutti i canali 1 e 1. Invece noi l'abbiamo regolata troppo bassa cioè praticamente era già così, noi non l'abbiamo regolata. Io te l'ho detto, fai 1, 20 e 40, te l'ho detto. Sì, ma a 40, cioè non è 5, non è 6, capito? 45 è lo stesso, sono alte. Ma se tu regoli la molla, ti si alzano appena appena nell'uno, che magari vanno a 1,1, 1,2. E poi negli altri canali lo stesso risultano così, capito? Ma solito la molla vuole poco poco più su, dai. Vuole regolare, io te l'ho detto, non so se mi hai sentito, ma quando tu sei entrato in più ti ho detto 1, 20 e 40, di guardare tutti e tre canali, poi l'avremmo regolata, no? Magari uno stava giù, guardava le stazioni e l'altro la regolava lassù. Infatti ti ho detto io a te che all'1 si muove poco poco, al 10 si muove 1 e 2, così sono 1 e 2, al 40 sono 1 e 5, al 45 1 e 7. Ma tu lo devi misurare, allora canali bassi metti l'1, metti il 20 che è centrobanda e il 40 come canali alti, capito? E le misuri così, guardi prima sul 20 e fai centrobanda, poi fai canale 1 e poi fai canale 40, capito? E così te le regoli bene, cioè ma è omogeneo in tutti i canali. E così ho fatto già, canale 1, canale 20, canale 40, ho fatto così, e canale 40 sono 1,5. E invece 45, 1,6, 1,7. Dai, io adesso più devo la prendermi il tram, se ci sei dopo bene, se no poi per te, ciao. Non lo so lui, perché adesso stiamo andando a farci un giro con Tyson e poi dobbiamo mangiare e non lo so se guardiamo il televisore. Dai, ci sentiamo, magari se non ci sentiamo magari ci sentiamo domani. Dai, ciao ciao. Via, ciao ciao Cri. Ciao a tutti, Devo arrivare a 8:30 a casa, se qualcuno io faccio le prove un attimo, vedere un po' se è tutto a posto, a dopo, ciao. Ciao Cristian! Gianni, una passeggiata! Grazie, grazie, ciao!